Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Quasi da parafrasare quella canzone dell'intrattenitore Teo Mammucari, Anvedi come balla Nando in Anvedi come ballano le mafie. Ma chi l'ha detto che la vita del boss e dei quacquaraquà che da essi dipendono è solo pane e cicoria? Turismo, ristorazione e locali notturni sono la vera adrenalina delle cosche. La diffusione del fenomeno è capillare, tanto che ogni ricostruzione appare parziale. Si spinge persino a mettere nero su bianco il presidente della Commissione parlamentare antimafia nella sua recente relazione sulle mani delle mafie, appunto, nell'economia e nelle istituzioni. Solo nel sud? Ma certamente no. A Milano Cosa Nostra ha tradizionalmente investito in locali notturni e bische fin dagli anni 60-70. Personaggi come Joe Adonis, che alla fine degli anni 50 e per tutti gli anni 60 ebbe il dominio mafioso sui nightclub milanesi, o Francis Turatello Faccia d'Angelo, o Angelo e Paminonda il Tebano, fanno ormai parte della storia e non più della cronaca mafiosa milanese. Gli investimenti della criminalità organizzata nel turismo e nella ristorazione al sud sono una realtà riscontrata da decenni, come testimoniò già nel 92 l'informativa su mafia e appalti del ROS dei Carabinieri, nella quale si dava atto che la mafia aveva realizzato, per mezzo del riciclaggio di enormi flussi di denaro provenienti dallo sfruttamento di finanziamenti pubblici, il monopolio delle attività edilizie, commerciali, industriali, turistico-alberghiere e così via, con la conseguente creazione di immensi patrimoni più o meno occulti. Già 20 anni fa, pertanto, era circostanza investigativamente confermata quelle che le mafie investissero rilevanti risorse in attività turistiche. E provate un po' a indovinare chi sono i più grandi riciclatori in questo settore che fa della movida un vero e proprio business? Ovvio, i casalesi e le cosche dell'Andrangheta. Buona vita e a domani.